Praga e compagni martiri. Vita di San Carlo Luanga e compagni martiri. Ecco, proprio parlando, cari amici, dei martiri ugandesi, identifichiamo questo paese nell'Africa equatoriale, situata al nord del lago Vittoria. Fu visitata la prima volta nel 1862 da alcuni esploratori inglesi e fu evangelizzata all'inizio prima dai missionari anglicani. Poi nel 1879 seguirono i padri bianchi. E qui dobbiamo dire che anche nel 2015, quindi qualche anno fa, Papa Francesco nel suo viaggio in Africa è andato a rendere omaggio anche al santuario che è stato eretto proprio in onore di questi martiri di cui parleremo questa sera. Ma volevo anche parlare un attimo di questa congregazione. Padri bianchi, non perché era un discorso di pelle, quindi di pelle bianca, non c'entrava nulla, ma perché avevano i vestiti bianchi. E vediamo perché. Questa congregazione era stata fondata dal cardinale Carlo Lavigerie nel 1868 ad Algeri e era stata fondata proprio per l'evangelizzazione agli africani. Nasce il cardinale Carlo il 31 ottobre 1825 a Bayonne, in Francia, e dopo essere diventato sacerdote, nel 1857 accetta la direzione dell'opera per le scuole d'Oriente. Questa scuola era stata fondata per aiutare i cristiani del Medio Oriente nella convivenza con i musulmani. 3 anni dopo questa fondazione, siamo nel 1860, si manifestarono i primi segni di ostilità da parte di musulmani che erano in Siria contro i cristiani del Libano. I musulmani, infatti, irritati dal fatto che la Turchia, per sostenersi contro la Russia, avesse dovuto chiedere aiuto alle potenze occidentali, quindi cristiane, e infastiditi nel vedere concessa a tutti la libertà di culto, tra cui anche il cristianesimo, prepararono una ribellione. Molte chiese furono distrutte e più di 200.000 cristiani morirono in questo massacro. Allora il cardinale Lavigerie si sentì impegnato ad agire in prima persona e con accorati appelli richiamava tutti, e tra i primi chiamò proprio i vescovi di Francia, d'Inghilterra, di Spagna, d'Italia, perché collaborassero con lui per attenuare questi scontri e per portare la pace, ma non attese le risposte. Senza attendere oltre, si imbarcò lui stesso per la Siria e giunse a Beirut, in Libano, per organizzare sul posto i primi soccorsi. Infatti il Libano era stato messo a ferro e fuoco. E cominciò proprio qui la sua vita di missionario, e fu un po' una sorpresa anche per lui. Qui fondò 2 orfanotrofi, possiamo pensare a una valanga di bambini che ormai non avevano più i genitori, e poi percorse l'intera regione e a costo rischiò la vita, portò degli aiuti fino in Siria, fino a Damasco. Quindi il suo aiuto era per tutti, per i cristiani e anche per i musulmani. E questo suo viaggio in Oriente ebbe un'importanza formativa importantissima. E proprio ripensando a quei momenti drammatici dirà: «È lì che ho trovato il mio cammino di Damasco», come San Paolo aveva capito dove il Signore lo chiamava. Nel frattempo, il 15 maggio del 1867, quindi alcuni anni dopo, accetta la nomina d'arcivescovo di Algeri. L'Algeria, scriveva ad un amico, non è che una porta aperta per l'evangelizzazione di tutto il continente africano. Con coraggio, uomo di grande tempra e di grande coraggio, riesce a strappare personalmente all'imperatore Napoleone III l'autorizzazione a mettere in pratica i suoi progetti, che avevano innanzitutto la missione e che Napoleone non vedeva di buon occhio, ma anche anche grazie all'appoggio del Papa Leone XIII, di abolire totalmente la schiavitù, che benché fosse stata, diciamo, soppressa, sappiamo, con il congresso di Vienna già anni prima, nel 1815, e quello di Verona nel 1822, di fatto però la schiavitù era ancora in uso e tantissimo in Africa e anche in Brasile. Qui nel 1868 fonda la Società dei Missionari d'Africa, che avranno un'importanza fondamentale per i nostri futuri martiri. E l'anno dopo fonda anche la Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora d'Africa. Da lì a poco, proprio questa missione in Africa equatoriale avrà già i suoi primi martiri. Ma andiamo per ordine, cari amici. Siamo nel 1880 e in quel tempo l'Uganda contava pochi milioni di abitanti, 3-4 milioni di abitanti. Era in uso la poligamia e la schiavitù, come dicevamo. Il primo tra i padri bianchi che vi aveva messo piede fu padre Simone Lardell, che insieme a dei confratelli aveva ottenuto dal re, che diciamo governava buona parte dell'Uganda, di stabilirsi a Rubaga, allora era la capitale, e qui il padre operò coraggiosamente per far conoscere il Vangelo sia alla corte del re che ai grandi del regno. Il re, che si chiamava Mtesa, era in un primo momento ben disposto nei confronti dei religiosi, anzi mise a loro disposizione diversi operai e grazie a loro fu possibile costruire in breve tempo una modesta residenza con una cappella. Era talmente serena, anche un po' strana si poteva pensare questa situazione, che il superiore padre Livinac, nei primi mesi appunto del 1880, poteva già scrivere al cardinale Lavigerie, cioè il loro fondatore: abbiamo un centinaio di catecumeni adulti, c'è qui grazie a Dio un grande numero di povere anime molto desiderose di conoscere la retta via e di seguirla a ogni costo. Non mi aspettavo di trovare presso i neri così felici disposizioni, cioè così tanta disponibilità. La classe da cui attendiamo di più è la prima classe degli schiavi, qui proprio perché ce n'erano davvero tante. Queste povere persone, dice padre Livinac, che abbiamo incontrato nel viaggio, sono desiderose di istruirsi nella nostra religione e di abbracciarla. Coloro che hanno parecchie donne, qui c'era appunto la poligamia, non esitano a conservarne una sola, quindi c'è la conversione, c'è anche l'inizio di una nuova vita. E conclude: si direbbe che gli angeli ci hanno preceduti e preparato le vie. I primi catecumeni in questo paese, nell'Uganda, furono battezzati il sabato santo di quell'anno. E il superiore così scrisse ancora al fondatore: non solamente essi credono, senza la minima esitazione, tutte le verità che noi esponiamo loro, ma dichiarano che sono risoluti a rinunciare ai loro vizi per condurre una nuova vita e giungere al cielo. Nel frattempo, vista l'enorme vigna da coltivare, giunsero altri padri ad aiutare chi era già sul posto. Fatto sta che l'anno dopo, nel 1881, i padri bianchi avevano già portato al cattolicesimo centinaia di persone. Ed era un fiorire meraviglioso di nuovi fratelli. Anzi, ci viene detto che alcuni di loro avevano il cuore così infiammato dall'amore per il Vangelo, quindi per Gesù, che appena istruiti nelle verità della fede, si facevano, per quanto potevano, catechisti e anche missionari verso tutte quelle persone che i padri magari non potevano avvicinare. C'erano magari donne musulmane oppure altre persone, diciamo, che in Uganda non desideravano essere avvicinati dai cristiani. E allora uno degli uomini più vicini al re era anch'esso un cristiano, si era fatto battezzare, si chiamava Giuseppe Mkasa, di 25 anni, era il capo dei paggi e prefetto della Casa Reale. Pur essendo cristiano, all'inizio non aveva osato proporre al re il battesimo, temendo di irritarlo. Ma il re pian piano cominciò a vedere che molti dei suoi sudditi cominciavano a convertirsi, quindi ad essere cattolici, e la cosa cominciò a irritarlo perché ovviamente il Vangelo rimproverava molti dei suoi atteggiamenti, anche dei molti vizi che lui aveva. Oltretutto il Vangelo non contempla la poligamia, questo era un problema grande, che si riversava, diciamo, su tutti i dignitari del regno, e chi soffriva più pericolo in quel momento erano i tantissimi paggi, tutti giovani che erano alla corte del re e che erano diventati catecumeni. Quindi erano già in un cammino, diciamo, nella verità della fede. Gli stessi missionari, avendo capito come che aria tirava in quel momento, dovettero raddoppiare la prudenza per non aggravare le cose. E in effetti in quel periodo il re concedeva loro soltanto una semilibertà, quindi si potevano muovere ma con molta cautela e solo in determinati ambiti. Questo già faceva capire l'irritazione del re. Intervenne allora subito il fondatore, il cardinale Carlo Lavigerie, che chiese ai suoi missionari di non mettere a repentaglio la loro vita e di non esporsi volontariamente al pericolo grave e certo della morte. E qui i missionari, a cominciare da padre Lardel, compresero ormai che la loro presenza era ormai, nel tempo era indesiderata e quindi rischiavano seriamente la vita. Cosa fecero? In parte furono cacciati, in parte si ritirarono, siamo nel 1883, quindi dopo 3 anni, in Tanzania. La Tanzania è praticamente il lago Vittoria, la Tanzania confina anche con l'Uganda, e c'è in mezzo il lago Vittoria che fa da confine, quindi loro attraversarono il lago Vittoria e andarono in Tanzania, si fermarono proprio sulla riva dall'altra parte, con un gruppo di ragazzi che avevano riscattato dalla schiavitù. L'anno dopo però il re Mtesa morì e Giuseppe Mukasa, che restava uno degli uomini più fidati a corte, cerca allora di persuadere il nuovo re Mwanga, che era figlio di Mtesa, aveva 18 anni questo ragazzo, di far tornare nel paese i padri bianchi che tanto bene avevano fatto. Pensate che questo giovane, almeno in quei 3 anni, il padre lo aveva fatto studiare proprio dai padri bianchi, ma non aveva imparato granché, anche perché non aveva nessuna intenzione di avere una sua cultura. Si sentiva il figlio del re e questo gli bastava. Era, diciamo, molto arrogante, anche crudele. Ma tornando all'Uganda, pensate che pur essendo questo paese rimasto per quasi 3 anni senza sacerdoti, proprio grazie ai tanti cattolici e ai catecumeni che avevano continuato ad annunciare la parola, aumentarono in modo prodigioso le conversioni. Non solo, la domenica, visto che non essendoci padri non si poteva celebrare la Santa Messa, organizzavano delle riunioni domenicali. Avevano insegnato proprio in queste riunioni a pregare, riflettevano sul Vangelo ed esercitavano una carità incredibile nonostante l'ostilità del re e anche gli sforzi di tanti, tra cui anche i loro parenti, che tentavano di distoglierli da questo cammino di grazia. Le preghiere furono moltissime da parte di queste persone, di questi tanti fratelli e il Signore volle che in particolare nel mese di luglio del 1885 padre Lardel poté informare il cardinale Lavigerie delle buone disposizioni nei loro riguardi del nuovo re. Era praticamente un mezzo miracolo, quindi questo grazie anche a Giuseppe Mkasa, che era, dicevamo, uno degli uomini più fidati anche del nuovo re. Ed era meraviglioso per tante persone, quindi ritornano i padri in Uganda, ed era meraviglioso per loro vedere tantissime persone che desideravano conoscere, approfondire il Vangelo, conoscere Gesù, conoscere le meraviglie della religione cattolica. E quindi erano moltissimi, fatto sta che molti, cioè questi padri, erano pochi quei padri, non riuscivano ad accontentare tutti quelli che arrivavano in missione perché potessero anch'essi godere, diciamo, della parola, della buona parola. Quelli che invece diciamo erano già all'interno, quindi erano già preparati, cosa facevano? Andavano da tanti fratelli, quindi nelle varie zone, diciamo, della capitale, ma anche oltre, per far conoscere Gesù. E lì ci viene detto che dalla mattina alla sera molti accorrevano alla missione per essere istruiti nelle verità della fede. Come succede spesso, questo fece nascere molte gelosie, anche possiamo dire un odio profondo verso i padri, soprattutto da alcuni importanti cortigiani del regno, in special modo del primo ministro che vedeva compromesso il suo potere, un potere illimitato di vita e di morte su tutti i paggi, servitori di corte e sui sudditi. Sudditi che prendevano pian piano coscienza della loro dignità di persone, dignità che non poteva essere calpestata a uso e consumo dei dignitari del regno, oltre che dal re. Un altro problema che queste persone vedevano era legato appunto alla poligamia, dicevamo. Quindi volevano impedire ad ogni costo, cioè pensavano che il re ad un certo punto avrebbe magari, visto che aveva accolto già i padri, aveva dato la possibilità di predicare, dice adesso il re ci manca solo che ci impone, cioè ci vieta la poligamia e ci impone la religione cattolica, una religione cristiana che condannava la poligamia. Cosa fece? Decisero di ucciderlo. Successe che tre catecumeni che erano a corte avvertirono segretamente il re di questo complotto che avevano scoperto, ma il re in modo maldestro si limitò solo a minacciare, non lo allontanò, minacciò il suo primo ministro dicendogli che lo avrebbe sostituito con Giuseppe Mcasa e di fare il suo generalissimo un altro amico di Giuseppe che era Andrea Cagva. Insomma, a partire da quel momento l'odio del primo ministro per i cristiani divenne implacabile e poi vedremo quello che succede. Insomma, decise di ucciderli tutti a cominciare dai più influenti. Nel frattempo gli anglicani, che erano presenti in Uganda, per cercare di annoverare tra le loro file un numero sempre maggiore di persone, cosa avevano fatto? Avevano invitato e fatto arrivare dall'Inghilterra il vescovo Dunnington, ma fu un grande errore. Perché il re pensò alla venuta di questo vescovo insieme ad altre persone come una minaccia di invasione da parte degli inglesi e ordinò che fosse attaccato e ucciso con tutta la sua scorta. Quando padre Lardel seppe questa cosa, corse subito dal re chiedendogli di non macchiarsi di quel sangue innocente, perché era un vescovo quello che arrivava e anche quelle persone che erano con lui erano solo dei missionari, insomma. Nonostante i suoi tentativi, non ci fu niente da fare. Visto che ormai era tutto perso, provò lo stesso Giuseppe Mcasa, che era appunto consigliere del re, prese il coraggio a due mani e per cercare di salvare gli inglesi disse «Vostro padre non avrebbe mai commesso un simile delitto, non l'avesse mai fatto. Questo re giovane montò su tutte le furie. Non solo, il primo ministro, roso dall'invidia, ne rinfocolò l'ira, ricordandogli che il capo dei suoi paggi, cioè che Giuseppe non solo era cattolico, ma un propagatore della sua religione ai danni del culto dei Lubalè e degli spiriti superiori della nazione dell'Uganda. Altri consiglieri poi che erano, tra questi consiglieri c'erano anche degli stregoni, insomma, misero altra benzina sul fuoco e gli dissero, se permetti a Giuseppe di conculcare i tuoi diritti, presto non sarai più il padrone del tuo regno, il re del tuo paese è già il Dio dei cristiani. E così, cari amici, Giuseppe, quest'uomo di corte, coraggioso, con una fede intrepida, e quante notti aveva pregato Gesù perché gli desse la forza di testimoniare la sua fede nel momento cruciale, un apostolo, possiamo dire, che cercava di riscattare più schiavi possibili e dare loro la libertà, fu condannato ad essere bruciato vivo a Rampala il 15 novembre 1885. Eppure, nonostante tutto, era un uomo molto amato, anche dagli altri, dalle persone, e lo stesso carnefice, per risparmiargli le torture del fuoco che il re aveva ordinato di infliggergli, prima lo decapitò. Con la morte di questo martire, il re si era illuso di convincere i cristiani a rinnegare la loro fede, ma, come succede spesso, ci fu esattamente il contrario. Furono infatti alcune centinaia i catecumeni che chiesero di essere battezzati. Chi diceva tra loro correva il rischio maggiore erano sì gli altri sudditi, ma soprattutto quelli impegnati a corte, ma tra loro si facevano forza a vicenda e dicevano: «Non abbiamo paura, quando piacerà al re di ucciderci, sapremo morire». E arrivò, cari amici, quel giorno. Il mattino dopo il martirio di Giuseppe, il re fece chiamare i paggi che erano stati alle dipendenze di questo martire e disse loro: «Si avvicinano a me coloro che non pregano con i padri bianchi». Solo tre ragazzi gli si avvicinarono. La cosa prima lo stupì, non se l'aspettava, poi lo mandò su tutte le furie, perché vedeva che la gran parte era esattamente era cristiana. Gridò allora agli altri: «Vi farò uccidere tutti». Tutti con una sola voce dissero: «Siamo pronti a morire per Gesù». Ma la barbarie non si fermò con la morte di quei paggi, proseguì senza pietà e coinvolse anche diversi anglicani in quel periodo. In quei momenti a corte c'era Carlo Luanga, era responsabile sempre di un gruppo, era un domestico, diciamo, di corte, che aveva preso anche il posto di Giuseppe che avevano ucciso. Con lui c'era anche Andrea Cagva, capo di una circoscrizione militare di un migliaio di uomini. Anche Andrea era un fervente cristiano e praticava una carità senza limiti, pur sapendo, cari amici, che metteva a rischio la sua vita. Aiutava i malati, li battezzava quando erano soprattutto in punto di morte, si prodigava per chi era nella miseria, lui era una persona insomma che stava abbastanza bene, cercava di consolare chi era nel dolore, e proprio per questa carità molti lo seguivano e, affascinati, anche stupiti da questo esempio e soprattutto da questa fede, diventavano a loro volta cristiani. San Carlo Luanga era invece diventato a corte il punto di riferimento di tutti i cristiani che erano presenti, tra cui anche alcuni dignitari. Era, diciamo, dove era Carlo, era l'area più pericolosa, perché era direttamente a contatto col re e quindi anche col primo ministro e altri dignitari che volevano naturalmente la morte di chi cercava di sbarrare loro la strada, anche il potere, no? Aveva molti nemici Carlo, che cominciarono ovviamente a tramare contro di lui, in modo particolare quando seppero che aveva portato insieme ad Andrea due nipoti del primo ministro al cristianesimo. Questa era una cosa che non gli perdono mai. Ma San Carlo Luanga, nonostante sapesse che attendevano queste persone il momento propizio per ucciderlo, non indietreggiò nel suo credo, nella sua fede e nell'amore profondo che aveva per Gesù, e con coraggio lo confessava davanti a tutti, anzi lui stesso rassicurava in modo eroico i suoi fratelli e diceva: «Avete ascoltato parecchie volte il re dirci che ci avrebbe separati da coloro che non sono cristiani per costringerci a rinnegare la fede. Quando ci minaccerà, noi ci alzeremo e andremo là dove ci indicherà, e voi tutti mi seguirete». Ebbene, quel giorno arrivò presto. E dicevamo arrivò quel giorno dove per ordine del re tutti i paggi con a capo Carlo Luanga furono condotti davanti a lui e gli disse loro: «Vedete questo cane? Vale più di voi. Se lo chiamo viene, se gli getto un osso lo mangia, ma voi non mi ubbidite. Fate chiudere poi tutte le porte perché nessuno fuggisse», e gridò: «Coloro tra voi che non pregano rimangano qui vicino a me. Coloro che pregano si ritirino là in fondo», e additò loro la palizzata vicina. San Carlo Luanga si mosse e buona parte dei paggi lo seguì nel luogo indicato. «È vero che siete cristiani?» domandò loro il re. «Sì, lo siamo. E volete restare tali?» «Sì, sempre, fino alla morte». Fu una sfida, il re la vide come tale e, pieno d'ira, guardando i carnefici, ordinò: «Uccideteli». Tutti furono legati al collo e ai polsi con corde robuste. Saputo quello che stava accadendo, ancora una volta padre Lardel corse dal re. In quel periodo, oltretutto, la corte era stata trasferita in un'altra città, a 3 ore di distanza da Rubaga. Ma il re non solo non volle riceverlo, diede invece ordine di iniziare la mattanza dei cristiani. Mentre gli altri paggi venivano condotti in prigione, per dare un esempio, fu ucciso Andrea Cagva, prima torturato, decapitato e bruciato. Era la vendetta del primo ministro per la conversione dei suoi nipoti. Nel frattempo fu dato ordine a tutti di trasferire tutti i prigionieri con una marcia forzata verso la città di Namugongo, sotto il sole cocente e senza cibo, trattati con una crudeltà senza limiti. E qui, sia per le percosse ricevute che per la fatica, alcuni di loro morirono nel cammino. Era, cari amici, il 26 maggio 1886. Al contrario di quello che pensavano i soldati che li stavano scortando, gli altri prigionieri, mentre procedevano in fila indiana, bruciati dal sole, tormentati dalla sete, si sostenevano a vicenda con coraggio, esortandosi nella preghiera e nella speranza del premio eterno. Il giorno dopo, in questa marcia forzata, fu ucciso barbaramente un ragazzino di nome Gonzaga, anch'esso cristiano, colpito a morte perché restava indietro a causa delle catene che gli impedivano il passo e da cui non era riuscito a disfarsi. Qualche giorno dopo fu la volta di un altro martire, di Mattia Marumba, di 45 anni, era il papà di due bambini che subì un atroce martirio. Pensate, quest'uomo era un giudice e dopo la sua conversione, dopo il battesimo, probabilmente anche a causa degli intrighi di palazzo, preferì cambiare professione diventando un semplice operaio proprio a imitazione di Gesù lavoratore a cui aveva ormai donato la sua vita. E a Mitiana, dove abitava nella provincia di Singo, era il riferimento dei tanti cristiani, diverse centinaia, tra cui vari catecumeni. Più volte al mese proprio Mattia mandava un fratello alla missione di Rubaga in capitale, che distava 60 chilometri, perché seguisse le lezioni dei padri bianchi e poi, tornato, le ripetesse a tutta la comunità. Quando in quel periodo il re ordinò il massacro dei cristiani, proprio il capo della provincia di Singo era stato convocato a corte e con lui andarono anche Mattia Marumba, e Luca Banabakintu. Entrambi preferirono affrontare il re, benché pensate avessero avuto la possibilità di nascondersi. Appena arrivati a corte, come potevano già immaginare, furono arrestati subito e condannati senza processo ad essere bruciati vivi. Arrivati però a Rampala, quindi alla capitale, nella capitale, Mattia si rifiutò di procedere oltre. Allora i carnefici, secondo gli ordini ricevuti, gli tagliarono le mani e i piedi e negli spasmi lui sussurrava, pregava dicendo «Mio Dio, mio Dio». Gli aguzzini erano costernati, sconcertati, non sentivano parole di improperi, di vendetta o altro, ma vedevano il perdono in queste parole meravigliose. Non capivano. Allora ancora di più gli fecero male, in una crudeltà senza limiti, gli compressero le vene e le arterie perché le sue torture fossero prolungate. Mattia morì così, consegnando in quel momento la sua anima a Dio. E proprio questo martire Mattia aveva un carissimo amico che si chiamava Noè Mavaggali, che lui stesso aveva portato al cattolicesimo, insieme a Luca Banabakintu era stato arrestato, come abbiamo visto, con Mattia. E fu proprio Noè a tenere il catechismo alla numerosa comunità al posto di Mattia, che ormai era stato, loro non sapevano che era stato già ucciso, che era stato arrestato. Alcuni giorni dopo l'arresto di Mattia, ma il suo martirio, giunsero al villaggio alcuni predoni inviati dal primo ministro per devastare la capanna, ovviamente allora capanne c'erano, del nostro martire, catturarne la moglie e i figli e uccidere tutti i cristiani. Ebbene, sostenuto da una fede bellissima, con un coraggio unico, Noè si presentò spontaneamente davanti a loro, offrendosi in sacrificio per gli altri, ma i predoni uccisero tutti. Lui anzi fu trapassato con la lancia e appeso come monito a un albero mentre era ancora vivo. Ebbene, in quei mesi, tra maggio e giugno, sopra la collina di Namugongo, molti cristiani attendevano incatenati al collo e ai piedi che fosse preparato il loro ultimo supplizio. La raccolta della legna e la fabbricazione delle stuoie di canne richiese alcuni giorni di lavoro. Vedremo a cosa servirà, purtroppo. Durante quella lunga e penosa agonia, tutti non facevano altro che invocare l'aiuto di Gesù e recitare il Santo Rosario affidandosi alla Vergine Maria perché desse loro la forza di essere fedeli fino in fondo a Gesù. Insultati conservavano il silenzio, rispondevano con parole di perdono e i meno crudeli tra i loro aguzzini, colpiti anche da quello che dicevano ma anche da quella pace che nonostante queste sofferenze traspariva, si dicevano tra loro: ma questi uomini che hanno fatto per meritare la morte? Arriviamo al giorno stabilito, quando i carnefici furono radunati al caratteristico suono dei tamburi. Era l'alba quel giorno, e quando si svegliarono i nostri martiri, iniziarono a pregare incessantemente il Padre Nostro e l'Ave Maria. Avevano solo un unico e grande dispiacere, non aver potuto ricevere i sacramenti. Furono condotti davanti al capo del boia, e passarono davanti a lui cantando con una serenità che turbò anche quest'uomo così crudele, così freddo, e cantavano la bontà di Dio. Furono allora fatti sfilare e alcuni di loro furono percossi con un bastone sulla testa, dovevano poi essere bruciati. Era il 3 giugno, allora quel giorno era la festa dell'Ascensione. Tutti questi fratelli spogliati dei loro vestiti si animavano però a vicenda, esclamando: «Ancora un momento e noi vedremo Gesù Cristo!». I carnefici erano attoniti. Da una parte erano sconcertati dal loro atteggiamento, non avevano mai visto una cosa di quel tipo. Dall'altra li consideravano dei pazzi, non si spiegavano infatti questa pace che rifulgeva in quei cristiani. Il primo tra loro ad essere torturato fu proprio San Carlo Luangua, il quale con fede sostenne fino all'ultimo i tanti fratelli presenti, anzi lui stesso aveva addirittura chiesto di potersi preparare da sé la legna su cui si sarebbe posto. Allora gli furono bruciati i piedi apposta a fuoco lento perché sentisse l'atroce morso della fiamma, senza una morte immediata. Gli disse il carnefice: «Bisogna che ti castighi». Ma Luca, l'amico che era al suo fianco, anche lui sarebbe morto poco dopo, avendo avuto lo stesso supplizio, disse al boia: «Carlo sta benissimo e anch'io muoio per avere religione». Sprezzante, irato, allora il boia si rivolse ancora a San Carlo Luanghi e gli disse: «Allora che il tuo Dio venga a ritirarti da questo braciere», no? Sentiamo le parole di Gesù quando gli hanno detto: «Scendi dalla croce». «Insensato», gli rispose San Carlo Luanga, «tu non sai quello che dici. Tu versi sui miei piedi dell'acqua fresca. Quanto a te, sta attento che il Dio che tu insulti non ti sommerga un giorno nel vero fuoco inestinguibile». E mentre i nostri martiri venivano torturati, i carnefici allinearono sulla catasta di legno a forma di rettangolo tutti i paggi, cattolici, ma anche alcuni anglicani, ma erano tutti uniti nella fede in Gesù, nella preghiera. Erano stati tutti legati e infagottati in stuoio di canne. Nessuno di loro rinnegò la fede, neppure i più piccoli, anzi tra questi il giovanissimo Chizito, che desiderava tantissimo ricevere il battesimo, non fu possibile con l'acqua, ma ricevette il battesimo per eccellenza, che è quello di sangue. E con grande meraviglia del boia, anche il boia qui era costernato nel vedere queste persone, in effetti quante conversioni ci sono state proprio per l'esempio che questi martiri hanno portato. E qui anche il boia, in un momento, diciamo, non so come potremmo chiamarlo, di disponibilità, prima di accendere il fuoco ai quattro lati della catasta, disse loro: rinunciate alla vostra fede, alla preghiera, e vi libereremo. Ma essi ad una voce risposero: pregheremo finché vivremo. Così, verso mezzogiorno, appena le fiamme cominciarono a crepitare e a salire in vortici fumosi, dalla catasta, cari amici, si levò una preghiera unanime. Tutti insieme recitavano il Padre Nostro. E qui, nonostante questa violenta persecuzione, le conversioni e i battesimi si moltiplicarono. Molti cristiani, pieni di gioia nel cuore, per quello che avevano scoperto, per questa meraviglia che è Gesù, per la speranza della vita eterna, dicevano ai missionari che raccomandavano loro la prudenza, e loro rispondevano così: i carnefici possono uccidere i corpi, ma non possono uccidere l'anima. Essa se ne va presso il buon Dio, che la rende eternamente felice. E proprio Monsignor Livinac, eletto poi vicario apostolico, scrisse così: durante il mio soggiorno di un mese a Santa Maria di Rubaga non passò quasi notte in cui non abbia ricevuto la visita di parecchi cristiani e abbia potuto cresimare 97 dei meglio preparati. Mi è capitato di alzarmi 4-5 volte nella stessa notte per ricevere qualcuno dei nostri cari visitatori. Non saprei dire quanto sia stato commosso nel vedere i meravigliosi effetti prodotti dalla grazia in queste anime, fino a ieri ancora immerse negli errori del paganesimo. I nostri cristiani si attendono da un momento all'altro di essere consegnati al boia, ma non se ne inquietano e affrontano i supplizi e la morte con un calmo coraggio che solo una fede incrollabile può dare. E allora anche diversi altri cristiani erano riusciti a sfuggire all'ira di Mwanga, del re. Tra essi c'era anche Giovanni Maria Muzei. Quest'uomo viveva in preghiera, unito a Dio e pieno della sua grazia, nonostante fosse ricercato dai soldati perché cristiano, non esitava a impiegare i suoi averi per operare il riscatto di tanti bambini schiavi che in seguito istruiva e poi li liberava, li rendeva liberi. Ma anche durante le malattie e le pestilenze curava i malati, li battezzava, insomma era un dono per i fratelli abbandonati. E proprio in quel periodo, durante questa feroce persecuzione, il re però fece capire che avrebbe perdonato tutti quelli che si erano sottratti alle ricerche dei soldati, perché sapeva che avevano reso molti servigi al padre, anzi aveva addirittura promesso che se fossero andati a corte avrebbe donato loro una piantagione. Giovanni Maria sapeva bene a cosa andava incontro, ma decise di presentarsi. A quanti invece lo dissuadevano rispose: lasciatemi andare a corte, se il re mi darà davvero una piantagione voi verrete con me e io vi presenterò a lui, se egli mi farà uccidere voi starete in guardia. Sapeva che doveva morire e, come era prevedibile, appena si presentò a corte venne arrestato, venne immediatamente decapitato e gettato in uno stagno. Era il 27 gennaio del 1887 e Giovanni Maria fu l'ultimo martire, vittima innocente di quell'orrenda persecuzione. Di tutto questo fu informato il cardinale Lavigéry di questa fede, fu informato della fede meravigliosa di queste persone, di questi fratelli, tutti laici, e anche del loro eroismo, e il cardinale pianse, che era un uomo tutto d'un pezzo, ci viene detto pianse di commozione, non se l'aspettava, e ordinò allora ai padri bianchi di avere su di loro, su questi fratelli martiri, quante più informazioni possibili. E i padri, su quanto aveva chiesto il loro fondatore, cercarono di raccogliere più testimonianze possibili, ma le testimonianze dirette li ebbero solo per 22 di questi martiri. E sono quei 22 martiri che Papa Benedetto XV beatificò il 6 giugno 1920. E questo allora determinò anche una certa sorpresa nel mondo cattolico. In effetti si trattava dei primi beati subsahariani, cioè dell'Africa nera, e essendo martiri erano venerati dalla Chiesa cattolica. Erano i primi di colore, praticamente, ma questo esempio di coraggio, di fede meravigliosa, ebbe molti anni dopo un'ulteriore consacrazione. Infatti, Papa Paolo VI li canonizzò il 18 ottobre 1964. Lo stesso Papa, 5 anni dopo, vuole andare personalmente in Uganda. Se non sbaglio, credo sia stata la prima volta che un Papa sia andato in Africa. Vuole andare personalmente in Uganda per rendere omaggio a questi fratelli. Era esattamente il 2 agosto del 69 e ci fu quel giorno anche la consacrazione della città di Namugongo, quindi dove erano stati martirizzati, ci fu la consacrazione dell'altare maggiore del santuario, di questo santuario costruito proprio in onore dei martiri. E Paolo VI in questa occasione fece dono di una bellissima omelia che coinvolge anche noi oggi e ve la vorrei leggere. Perché disse così, parlando agli ugandesi: figli carissimi, gioventù cristiana dell'Uganda, e voi, carissimi fratelli, sacerdoti, religiose, religiose, laici, siate tutti salutati e benedetti. Sappiate tutti che vi teniamo presenti nella nostra preghiera, in questo santo rito. E tutta l'Africa noi consideriamo in questo momento simbolicamente partecipe alla sacra cerimonia, perché tutta l'Africa noi la vogliamo offrire a Cristo per la sua prosperità, per la sua pace, per la sua salvezza. A questi giovani, a questi catecumeni, a questi fanciulli come segni dell'Africa nuova, noi rivolgiamo ora in modo speciale questo breve discorso. A voi, figli carissimi, ora io domando, perché sono venuto in Africa, nell'Uganda, fino qua a Namugongo? Sono venuto per rendere onore ai vostri martiri. Qui sorge un santuario a gloria del Signore in loro memoria e io ho voluto venire da Roma per benedire l'altare di questo santuario. La mia intenzione è di venerare con questo atto anche tutti gli altri cristiani che hanno dato la loro vita per la fede cattolica in Africa, qui e dappertutto. Ma perché, voi mi domanderete, si devono onorare i martiri? Vi rispondo, perché essi hanno compiuto l'azione più eroica e quindi più grande e più bella. Essi hanno dato, come vi dicevo, la loro vita per la loro fede, e cioè per la loro religione e per la libertà della loro coscienza. Essi sono così i nostri campioni, i nostri eroi, i nostri maestri. Essi ci insegnano come devono essere i cristiani. Ascoltatemi. Un cristiano deve essere vile? Deve avere paura? Deve tradire la propria fede? No, non è vero. I vostri martiri ci insegnano come devono essere i veri cristiani, quelli giovani specialmente, quelli africani. I cristiani devono essere coraggiosi, forti, devono essere, come scriveva San Pietro, forti nella fede. I vostri martiri, dice il Papa, ci insegnano quanto vale la fede. La fede, voi mi domandate, vale più della vita? Sì, la fede vale più della nostra vita presente, che è una vita mortale, mentre la fede è il principio della vita immortale e felice, cioè della vita di Dio in noi. Sapete voi questa importantissima verità? Sì, voi mi rispondete, perché avete imparato che la fede è l'adesione alla parola di Dio, e chi accetta la parola di Dio comincia a vivere di Dio stesso. E continua Papa Paolo VI, basta la fede per essere vivi in Dio e per essere salvati? Voi mi potreste chiedere, ma voi conoscete il vostro catechismo, la fede è necessaria ma non sufficiente, con la fede occorre la grazia, occorre lo Spirito Santo, occorre il sacramento, il grande sacramento che ci fa cristiani, il battesimo, e poi occorrono anche gli altri sacramenti che ci fanno vivere come figli di Dio, come fratelli di Cristo, come tabernacoli dello Spirito Santo. Ci fanno buoni e santi, ci fanno membri della Chiesa, ci fanno meritevoli del Paradiso. Il sacramento dell'Eucaristia, fra tutti i sacramenti il più misterioso, ma anche il più santo, il più vivificante, ci dà Gesù Cristo stesso. Sacrificandosi per noi, si è fatto pane vivo per le nostre anime. Dunque, voi potete dire, è molto bello essere cristiani? Sì, figli carissimi, è molto, molto bello. Io vorrei che questo pensiero restasse impresso nella vostra memoria, anzi, nella vostra coscienza, per sempre. È molto bello essere cristiani, ma fate attenzione. È molto bello, ma non è sempre facile. Guardate i vostri martiri. Per la loro fedeltà a Cristo, essi hanno dovuto soffrire. Chi è cristiano deve vivere secondo la propria fede, e allora può capitare che questa coerenza alla fede esiga sacrificio. Alcune volte esige grandi sacrifici, ma più spesso esige solo tanti sacrifici piccoli e frequenti, ma sacrifici cari e pieni di vigore nobile e virile, che rendono forte e virtuosa la vita, la conservano pura e onesta, la rendono sempre rivolta all'amore. All'amore di Dio, che è la prima cosa che dobbiamo fare, e poi all'amore degli altri uomini, di quelli che ci sono più vicini, specialmente i più vicini, e sono il nostro prossimo, e all'amore poi di tutte le persone umane, buone e cattive, vicine o lontane. Allora voi ancora mi chiedete, essere cristiano è importante anche per la vita presente, perché ci obbliga a voler bene a tutti e a far del bene a tutta la società? Proprio così vi rispondo. La vita cristiana ha una grande importanza anche per questa vita terrena. Ha importanza per tutta l'attività umana, per tutta la convivenza sociale, per la famiglia, per la scuola, per il lavoro, per la pace fra tutte le classi sociali, fra le tribù, fra le nazioni, e promuove il bene dappertutto. Vuole la libertà, vuole la giustizia, si occupa dei deboli, dei poveri, dei sofferenti e anche dei nemici e dei defunti. La vita cristiana, dice il Papa, quando davvero porta Cristo nel cuore, è come una fontana di bontà e di amore che diffonde il bene d'intorno a sé. Mi fate forse un'ultima domanda che è questa. Come si fa a vivere bene la nostra fede cristiana? Ecco, io riassumo così le tante cose che vorrei dirvi. Primo, amate molto Gesù Cristo. Cercate di conoscerlo bene, state uniti a Lui, abbiate in Lui molta fede e molta fiducia. Secondo, siate fedeli alla Chiesa, pregate con lei, amatela, diffondetela. Siate sempre pronti, come i nostri martiri, a darle franca testimonianza. Terzo, dice il Papa e conclude, siate forti e coraggiosi, siate contenti, siate lieti e siate allegri, sempre, perché la vita cristiana, ricordatelo, è molto bella.